Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR, 10 Sol per varie sue iniquità è riprovato, e ucciso insieme con figliuoli dei filistei, e troncatogli il capo dai filistei. Il rimanente del corpo è sepolto insieme coi suoi figliuoli dagli uomini di Jabes Galad. Or i filistei erano venuti alle mani con Israele, e gli israeliti furono messi in fuga, e ne morirono feriti molti sul monte Gelboe. E avanzandosi i filistei nell'inseguire Saul, e i suoi figliuoli, uccisero Jonata, e Abinadab, e Melchisua, figliuoli di Saul. E la zuffa divenne più atroce attorno a Saul, ed ei fu scoperto dagli arcieri, i quali lo feriron di freccia. E Saul disse al suo scudiere, sfodera la tua spada, e uccidimi, affinché non vengano questi incirconcisi a farmi oltraggio. Ma lo scudiere pieno di spavento non volle far questo, Saul allora di dipiglio alla spada, e gettossi sopra di essa. La qualcosa avendo veduta il suo scudiere, e veduto, che Saul era morto, egli pure gettossi sopra la sua spada, a morì. Perì adunque Saul, e tre figliuoli di lui, e tutta la sua famiglia parimente perì. La qualcosa avendo veduta gli israeliti, che abitavano nelle pianure, si diedero alla fuga, e morto Saul, e morti i suoi figliuoli, abbandonate le loro città, si spersero chi qua, chi là, e andarono i filistei ad abitarvi. Ma il di seguente i filistei raccogliendo le spoglie degli uccisi, trovarono Saul, e i suoi figliuoli stesi sul monte di Gelboe. E lo spogliarono, e tagliatagli la testa, e nudatolo della sua armatura, lo mandarono nel loro paese, perché fosse portato attorno, e fatto vedere alla gente nei templi dei loro idoli, e le armi di lui le consacrarono al tempio del loro Dio, e la testa la affissero al tempio di Dagon. Ma avendo udito gli uomini di Jabes di Galad tutto quello, che i filistei avevano fatto al corpo di Saul, si mossero un dietro all'altro tutti gli uomini di petto, e portaron via i cadaveri di Saul, e dei suoi figliuoli, e li recarono a Jabes, e seppellirono le ossa loro sotto la quercia di Jabes, e digiunarono 7 giorni. Morì adunque Saul per le sue iniquità? Perocché egli non osservò i comandamenti intimati a lui dal Signore, e li trasgredì, e di più ancora consultò la pitonissa, e non isperò nel Signore, il quale perciò lo fece morire, e trasferì il suo regno a Davide figliuolo di Isai. Note, 10,10. E la testa la fissero al tempio di Dagon. Il corpo lo appesero alle mura di Betisan, il capo scorticato lo depositarono nel tempio di Dagon, come in ringraziamento a quel loro dio della vittoria conseguita. Vedi, 3 XXXI. 10.